In collegamento dalla piazza, di nuovo in collegamento dalla piazza, dal corteo per Valerio Verbano. Ciao. Allora, che cosa ci dici? Dove, a che punto è il corteo? Il corteo si sta concludendo, si è ingrossato sempre di più durante il suo percorso. È stato veramente emozionante perché comunque il quartiere, come sempre, ha risposto bene e la gente si affaccia per strada. Valerio se lo ricordano tutti, insomma, è veramente un pezzo di cuore di questo quartiere e anche di tutta la città. Ci stanno, come avevo detto prima, tantissimi studenti, tantissime studentesse che si fermano anche a parlare con la gente per strada, dare i volantini, cose che insomma un po' che magari non vedevamo. Quindi è veramente una grande, grande emozione, insomma. Io spero che i miei appelli di prima siano serviti e che molti di voi siano tra quelli che hanno continuato a ingrossare il corteo. Senti, qual è la meta del corteo? La meta è la Palestra Popolare a Via Isole Corsolane, alla discesa del Tufello. Ci sarà uno spettacolo di militanti attrice contro di lettura sempre su Valerio Verbano e a seguire Ulderico Pesce. C'è anche da mangiare, quindi se non avete mangiato potete anche venire qua, se siete staccate adesso dal lavoro. Dico che ne vale veramente la pena perché è veramente un pezzo di storia da preservare con il cuore. Senti, posso provare a chiederti i numeri del corteo? I numeri secondo me sono grandi per un corteo di quartiere, guarda, più di 3.000 sicuri. Più di 3.000 persone sicure, Bene, secondo me. Già c'è da bello. ingrossare, un po' l'ho perso, però sono veramente tanti tanti. Striscioni, che striscione d'apertura c'era? Lo striscione di apertura è uno striscione che ricorda il trentennale di Valerio Verbano e sulla memoria della sua uccisione, il fatto che la lotta non si ferma ma continua. Infatti, per l'appunto, adesso è nata da un po' di anni all'interno del quartiere una palestra popolare che lo ricorda, che è attiva nel quartiere e che è riuscita, insieme anche alle altre associazioni e centri sociali e compagni e compagne del quartiere, a creare di nuovo un evento così grande. Va Quindi bene. li ringraziamo. Va bene, grazie mille allora. Grazie a voi, buon pomeriggio.